in questo mi entra perpetua notte, chiude i mesti i lagrimosi rai. Sai il ciel con quel cuore si di vedervi ancora.